Tempo di sport di Gigi Garanzini. 17 marzo 2011, 150° anniversario dell'Unità d'Italia. La puntata di oggi, come ampiamente annunciato, è dedicata per intero ad alcuni grandi atleti o personaggi dello sport italiano. Alcuni, ho detto, non certamente tutti, perché anziché un'ora scarsa di programma sarebbe servita una settimana o un mese, scelti grazie anche e forse soprattutto alle vostre segnalazioni pervenute in questi giorni. Di alcuni siamo riusciti a rintracciare un contributo vocale, di altri no. Il primo che vi propongo è dedicato a una donna, una delle più grandi atlete di sempre. Ha scritto Roberto Corti. Ci ho pensato molto, ma mi riesce difficile trovare una figura sportiva che accomuni tutti gli italiani. Credo che solo nel mondo degli sport cosiddetti minori, si fa per dire, aggiungo io, si possano trovare figure che hanno forse rappresentato tutta l'Italia insieme. Penso per esempio a Sara Simeoni con il suo 2-0-1 del 78 e la medaglia d'oro vinta ai Giochi Olimpici di Mosca del 1980. Accontentato. Sara Simeoni. Ma sicuramente c'è, cioè, la medaglia d'oro alle Olimpiadi, anche perché noi in quegli anni lì avevamo le Olimpiadi, il campionato d'Europa. Se, poi ogni 4 anni si ripresentava l'occasione, non è come oggi che c'è un mondiale ogni 2, capito? E quindi ti puoi anche riprendere da queste cose. Perciò la medaglia d'oro alle Olimpiadi è stato il coronamento, diciamo, di questa attività. Se devo cercare una medaglia, cioè, che, a cui effettivamente sono particolarmente legata, è quella d'argento delle Olimpiadi di Los Angeles, dove ho ottenuto un risultato insperato assolutamente, quindi l'ho vissuta emotivamente in modo intenso. Altra segnalazione, Antonio Tambato scrive: io menzionerei l'Italia che ha vinto il Mondiale di Spagna 82 perché ha unito gli italiani sia geograficamente che generazionalmente. Come personaggio sportivo indicherei senza dubbio Valentino Rossi come simbolo dell'immagine e imprenditorialità dell'Italia sportiva nel mondo, la Ferrari. Bene, allora la voce di Enzo Ferrari, niente meno al microfono, niente meno di Enzo Biagi, a proposito di duetti tra titani dell'italianità. Corrido in automobile perché sono nato in un'officina e mio padre si interessava già di automobile pure facendo il carpentiere. Tenore di operette perché il sabato sera mio padre mi portava al teatro con il mio compianto fratello ed assistevo alla Vedova Allegra, alla Principessa dei Dollari, alla Duchessa del Baltabarè, alla Geisa. E sono quei ricordi che mi hanno portato a desiderare di poter avere voce e talento musicale per poter incontrare delle soubrette. Giornalista, come le ho accennato prima, le ho consegnato un ritaglio della Gazzetta dello Sport del 1914, Internazionale batte Modena 7-1. Se avete i brividi non preoccuparvi, che è soltanto normale. Alla voce di Enzo Ferrari, al microfono di Enzo Biagi. Scrive Umberto Polesel da Vigevano: colgo l'invito e vi segnalo quella che a mio giudizio è la più bella vittoria dello sport italiano, la staffetta maschile di sci nordico alle Olimpiadi di Lillehammer del 94, a partire dal lancio di De Zolt, proseguendo con Albarello e Vanzetta e conclusa con la volata di Silvio Fauner davanti ai norvegesi e al loro re. Polesel, il ricordo è bellissimo, noi non siamo riusciti a trovare queste voci e quindi in compenso ne ascoltiamo un'altra, sempre di un grande atleta italiano, è quella spentasi da poco di Cesare Rubini, che racconta i suoi tempi d'oro tra pallanuoto e in attesa del basket alle Olimpiadi di Londra del 48. Ma io non dovevo andare per la rarità a Londra per giocare a pallanuoto, perché giocavo a pallacanestro ed ero sicuro di andare con la pallacanestro. Poi dopo invece io mi divertivo molto di più con i napoletani e tra di noi, che era fantastico. Abbiamo vinto al campionato d'Europa e poi abbiamo giocato le Olimpiadi di Londra. E poi abbiamo fatto Helsinki e poi l'Australia. Io ho partecipato a tutte queste cose qua. E dopo facevo l'allenatore di pallacanestro, poi facevo l'allenatore di pallanuoto. Ho dovuto per forza prendere una via che era quella della pallacanestro. Era un'atmosfera contro l'Italia in modo eccezionale, perché avevamo perso tutto noi, no? La guerra era fuori tiro ormai, non tutti guardavano l'Italia con simpatia. Quando abbiamo giocato contro i francesi, che ha suonato l'ino, ha mostrato il culo, abbiamo urlato da contro di loro, dopo è cambiato naturalmente. Cesare Rubini. Ha reso una spruzzata di calcio d'anteguerra, quello che portò all'Italia due titoli mondiali, 34 e 38. Uomo simbolo di quella nazionale è stato senza dubbio Giuseppe Meazza, detto Peppino. La sua grande specialità, il gol sull'uscita del portiere, che qui è raccontata da Giuseppe Cavanna, portiere di riserva dell'Italia ai mondiali del 34. A Milano, Napoli-Inter, eravamo 1-1 al secondo tempo e io sapevo che lui aveva l'abitudine di tirar fuori i portieri per triplarli, vero? Allora dico, questa figura a me non la fa, perché eravamo amici di nazionale, vero? E allora ci ho fatto un momento, ci ho fatto tira! E lui ha tirato nell'angolo, purtroppo, ma triplarmi no. Questo era già assodato, che lui non me la poteva fare, ecco. Però ha fatto il gol. Ha fatto il gol, sì, perché purtroppo dopo, quando tirava era preciso, c'era niente da fare. Beh, gli ha risparmiato almeno l'onta del gol a invito, così si chiamava quello di Meazza, che nel calcio d'anteguerra ha rappresentato un po' quello che il tunnel poi è stato per tanti anni ed è ancora in parte nel calcio del dopoguerra, anche nel calcio moderno. Nel giorno dei 150 anni dell'Unità d'Italia sono tanti i possibili uomini simbolo della storia del calcio italiano: Meazza, Rivera, Combi, Ozzoff, Giovanni Ferrario Tardelli, Piola o Paolo Rossi. Il mio personale è Gigi Riva per almeno due buone ragioni. La prima e che Riva è tuttora, e chissà per quanto tempo ancora, il miglior cannoniere della storia azzurra, con 35 gol contro i 33 di Meazza e i 30 di Piola. La seconda, in questi giorni in cui si torna incredibilmente a parlare di patria, è che Gigi Riva ha dato due gambe alla patria, due fratture in altrettante partite dell'Italia: nel 67 a Roma col Portogallo, perone sinistro, nel 70 a Vienna contro l'Austria, perone destro. C'è un po' di retorica inevitabilmente, no? Nelle due gambe alla patria, però Riva, tu le hai date davvero? Ma sai, faceva un po' parte del mio modo di giocare. Giocavi allora contro difese dure, allora c'era il libero che doveva fermarti a tutti i costi, e quindi gliene metteva un po'. Come cose che facevano parte del gioco che ho scelto. Sì, c'è una frase di allora, che insomma di quell'epoca, che mi ha sempre colpito in tutti questi anni, e che è: Riva mette la testa dove gli altri faticano a mettere i piedi. Beh sì, è un po' quando parlo di caratteristiche mie erano proprio queste, cioè d'altronde dovevi essere tra virgolette coraggioso, non potevi tirarti indietro, perché sennò, soprattutto quei tempi, la palla la vedevi poco. Guarda, pochi minuti fa un mio collaboratore giovane ha rivisto il filmato che circola su YouTube del macellaio austriaco dell'intervento del 70 in quell'Austria Italia, e siamo sinceramente inorriditi a distanza di tempo. A te è mai più capitato di rivederlo? No. Non è più capitato, ma ti devo dire che non porto rancore. Era un'entrata un po' così, un po' dura, come tante volte è capitato nei momenti di gioco, e invece quella sera, quella forbice che ha fatto da dietro con le gambe mi ha praticamente bloccato, sfasciato completamente la caviglia. Senti, in certi casi, in date come questa, io credo che un po' di retorica non guasti. Tu, per esempio, mi pare sia sempre stato fiero di essere un simbolo dell'Italia, al punto che ancora oggi ne sei l'accompagnatore ufficiale, da dirigente, non più da giocatore, è ovvio. La senti questa italianità? Ma certo, io ho fatto parte così nella mia vita, ho scelto il calcio e avrei pagato per giocare al calcio, e ho scoperto poi che invece mi pagavano. e poi quando arrivi ad indossare la maglia azzurra è una cosa è una cosa che ti resta per tutta la vita, ti restano tutti i ricordi, tutte le emozioni, non avere il fiato neanche per cantare l'inno, oppure la maglia azzurra ti resta attaccata alla pelle. Sono ricordi che sono unici, soprattutto quando giochi all'estero ti rendi conto che rappresenti il tuo paese, e il tuo paese si aspetta molto da te per avere soddisfazione, per avere immagine anche. Chissà perché questa frase, quando ho scoperto che non solo non dovevo pagare io, ma mi avrebbero pagato per giocare a calcio, chissà perché questa frase appartiene alla vostra, posso dire anche alla mia generazione, e non trova più riscontri in quella di oggi. Potrebbe essere questo uno dei distacchi che si sono creati tra il calcio reale e il calcio virtuale di oggi? Ma sai, il calcio di oggi è un business che coinvolge un po' tutti, che coinvolge televisioni, presidenti, sponsor, una cosa che è diventata così, come ti posso dire, insostituibile ormai. Sì. Nelle serate nostre, perché ogni giorno ti danno una partita, ogni giorno c'è una coppa, ti danno il posticipo, ti fanno giocare a mezzogiorno, c'è sempre, in un certo senso mascheriamo un po' i problemi del paese con i circenses, no? Certo, verissimo. Senti, C'è qualche aggancio, insomma il calcio è molto cambiato e ci stai testimoniando come. Il calcio in certe cose è rimasto uguale. Io ti leggo una frase tua di allora, a proposito di quella che oggi viene definita sudditanza psicologica. Tu, a proposito dello scudetto del Cagliari del 70, hai detto: avremmo potuto anche vincerne uno all'anno, forse, se non ci fosse stata la dittatura di Milano e di Torino. E hai aggiunto: la vittoria del Cagliari fece scalpore come se fossimo stati una squadra di extracomunitari. Protestai pubblicamente perché noi, per avere un rigore, dovevamo esibire un certificato medico. Sì, è vero. È vero. È vero, è vero. Abbiamo subito di quei torti spaventosi. D'altronde, se parliamo fine anni 70, fine anni 60, è chiaro che gli arbitri, c'era questa sudditanza nei confronti di Milano e Torino, e quindi finivano per danneggiarti in tutti i modi, e non avevi neanche la possibilità di protestare perché non eri considerato. Cioè, l'anno prima dello scudetto eravamo forse anche più forti di quando abbiamo vinto lo scudetto. Sì. L'anno successivo c'è stato il mio infortunio a Vienna, e quindi comunque sia eravamo già primi in classifica, e l'ultima partita che ho fatto prima dell'infortunio avevamo vinto a San Siro 3-1. È chiaro che allora quando si parlava di scudetto era un discorso che riguardava Milano e Torino, con le tre squadre leader che gestivano un po' come volevano il calcio. Beh, non è che sia cambiato poi tantissimo da questo punto di vista. Infatti credo che questo racconto tuo, rapportato a 40 anni fa, farà riflettere, no? I più giovani, che beati loro che quell'epoca non l'hanno vissuta. Io ho sott'occhio una splendida intervista, ripeto, che ti ha fatto Didetti per Repubblica qualche mese fa. C'è un episodio, lasciando stare i tuoi racconti di famiglia e di cose, perché sennò diventerebbe troppo lungo e poi non voglio metterti in imbarazzo, però esatto. Quando eri giovane ed eri interista, tu scrivevi ai giocatori dell'Inter, ai tuoi idoli, in particolare a Skoglund, e ti aspettavi una risposta non è mai arrivata. Dici: ogni mattina scrutavo il postino e lui, con un cenno del capo, mi faceva capire che non c'era nulla per me. sì, era una cosa che mi è rimasta anche nella vita, così, nel rapporto con i giovani ancora adesso. E allora pensavo, vabbè, se avrò la fortuna di diventare un giocatore conosciuto e bravo di calcio, devo dare una risposta a questi ragazzi, perché, cioè ai ragazzi giovani, perché con poco mi rendevo conto, quando io soffrivo, che non arrivava la risposta, mentre invece con poco al ragazzo invece puoi dare tanto. Li fai felici. Li fai felici. E tu poi l'hai fatto questo in carriera? L'ho sempre fatto. Sì, sì. Questo è molto bello. E a maggior ragione l'hai fatto a Cagliari, dove sei arrivato appunto, adesso non voglio calcare troppo la mano, ma nel giorno dei 150 anni in fondo eri un emigrante a tuo modo, no? Perché arrivato dalla Lombardia a Cagliari così giovane, orfano di padre e di madre, insomma, senza calcare troppo sulla retorica, però ci stava. Ma sì, sono arrivato ragazzo, mi hanno un po' adottato, arrivare in Sardegna allora non era una cosa semplice o facile, parliamo della Sardegna prima della Gacan, prima della Costa Smeralda, prima, e allora era un po' un'avventura per me, e quindi in un primo momento è stata la passione per il calcio che mi ha fatto venire qui a Cagliari e giocare in una squadra che era di categoria superiore a quella dove giocavo l'anno precedente. Sì. Poi pian pianino le cose sono andate più che bene, mi è stato dato tanto, la Sardegna mi ha dato tanto sotto l'aspetto affetto, simpatia, correttezza. Il sardo poi rispecchia abbastanza anche il mio tipo di carattere. Sì. E quindi fare delle scelte poi più importanti, dopo che una regione ti aveva dato molto, mi sembrava un po' un tradimento, così, ecco, e ho fatto una scelta di vita e sono contento di averla fatta, perché tuttora ho ancora un buon rapporto con tutta la regione. E credo che tutta la regione ti adori a maggior ragione quando lei 41 anni fa gli ha regalato uno scudetto. Una delle ultime frasi che hai detto pubblicamente è: io sono rimasto uno di paese, se parliamo di Sardegna non ho mai messo piede in Costa Smeralda, io semmai sto dalla parte dei pastori del Nuorese. Sì, perché la Sardegna vera è quella, Sardegna, lasciamo stare tutto quello che si legge sulle riviste patinate. Esatto, con tanto di fotografie, tanto di gente così, ma la Sardegna soffre, la Sardegna è un paese, soprattutto in questo periodo, in questo momento, che non intravede un futuro sereno e tranquillo. Ci sono laureati che fanno i pastori pur di non lasciare il loro paese. C'è gente che c'è una fabbrica che chiude ogni due mesi, ci sono problemi a Porto Torres, a Porto Scuso, nei teatri, e non c'è una strada, non c'è la possibilità di intravedere un qualcosa che in futuro può darti garanzie e sicurezza. Certo, si sentono soltanto parole, che quasi sempre sono parole vuote. Allora chiuderei questa conversazione con te con un'altra citazione tua da quell'intervista. Tu, a proposito di TV, hai detto: è talmente triste vedere personaggi che cambiano 6 cravatte al giorno per raccontare bugie in 6 programmi TV diversi. Eccoli, questi sono i nostri maestri di vita di oggi. Ma purtroppo oggi è così. Oggi giornali e televisioni fanno servizi politici a modo loro. È chiaro che quando senti svariate persone promettere, dire, fare, poi ti rendi conto che di tutto quello che è stato detto non è andato in porto niente, e a quel punto cambi programma, preferisco vedermi un cartone animato. Buon anniversario, Gigi Riva. Grazie a tutta Italia. Molti dei più grandi della storia dell'atletica leggera nelle vostre segnalazioni. Umberto Fontana segnala Pamić, un italiano oltre le offese, ricevute da chi non voleva capire la tragedia dell'Istria, scrive questo ascoltatore. Luigi Ribone segnala Luigi Beccali, la medaglia d'oro dei 1500 alle Olimpiadi di Los Angeles del 32, una vittoria che unì tutti gli italiani, scrive, anche quelli d'America. Claudio Del Fitto risale un pochino nel tempo, senza esagerare, e propone la vittoria di Berruti alle Olimpiadi di Roma. Non è una scelta che abbia fatto solo questo ascoltatore, sono in tanti che hanno votato Livio Berruti. E allora ascolterei un'intervista, tra l'altro proprio a me, insomma, a questo microfono, in cui a 50 anni dalla medaglia d'oro sui 200 metri, così Berruti ricostruisce quel magico pomeriggio romano. A quei tempi semifinale e finale si facevano nello stesso giorno e a distanza di 2 ore, 2 ore e mezza, quindi quella volta furono 2 ore che sono intercorse. E l'aspetto più curioso e più originale di quel fatto è che, avendo fatto già il record del mondo in semifinale, tutti osannarmi, io invece preoccupatissimo di essermi stancato troppo, per cui mi sono rifugiato nello spogliatoio e sono rimasto inerte lì per cercare di raccogliere le forze e le energie per poi fare la finale, quindi commettendo uno degli errori più gravi che possa commettere un atleta, cioè non prepararsi scendendo in pista prima per scaldarsi i muscoli per confrontarsi in maniera totale con gli altri. Ritorno appunto nel spogliatoio, sì, apro il mio libro, perché io per scaramanzia, una specie di totem, avevo un libro di chimica generale, mi ricordo, anzi di chimica organica, cioè ero secondo anno di chimica appunto alla facoltà di Padova, e quindi cercavo di fare il disinvolto, cercavo quasi di estraniarmi da quel momento pensando ad altro, e questo era il mio segreto della tranquillità poi in corsa. Abbiamo scelto Berruti, devo dire a maggioranza di ascoltatori, avremmo potuto scegliere evidentemente alla stessa maniera Pietro Mennea, Pasquale Marino per esempio è uno di quelli che avevano votato Mennea, ma la stessa cosa accade più o meno nello sci. Scrive Alessandro Raimondi da Mirandola: Alberto Tomba ha unito noi 35 anni come nessuno, ricordo le lezioni scolastiche sospese per seguire le sue manche. Giorgio Massa gli fa eco, le seconde manche di Alberto Tomba con recuperi clamorosi fino al primo posto rimangono uniche per me. Io vi propongo invece di sentire un antenato di Tomba, il primo che inchiodò davanti alla TV una generazione di appassionati, Gustavo Toni. Sono sempre dei ricordi molto belli, ricordo insomma, diciamo, come sempre qui sono delle bellissime gare molto importanti, anche diciamo dal punto, diciamo, come discesa è una delle più impegnative che ci sono, e in quel senso lì è anche ancora più bello. Ma diciamo, io discesa ho ben sempre fatto, e non è che era la prima volta, l'avevo già fatto diverse volte prima, e comunque è una pista che mi piaceva sempre molto e mi sono anche sempre divertito su questa pista, anche se è molto difficile. Toni stava rievocando la volta che arrivò a un centesimo di secondo in libera da Franz Klammer, forse il più grande discesista di tutti i tempi, lui che invece era un eccezionale slalomista. Di sicuro le sue imprese di questo sciatore di trafoi saldarono un pezzo d'Italia, che era l'Alto Adige, al corpo del paese. A metà degli anni 70, un'altra grande impresa individuale e insieme collettiva fece scattare la molla dell'orgoglio nazionale, anche perché quella Coppa Davis del 76 l'andammo a vincere in Cile, a casa di un certo Pinochet. Ecco la testimonianza del principale protagonista di allora, Adriano Panat. Noi quell'anno eravamo molto forti, perché sia io, sia Corrado Barazzuti, Paolo, che giocava molto bene, per cui il doppio era difficile che noi perdevamo in Coppa Davis. Lo stesso Zuccarelli, che se c'era bisogno era già un giocatore molto, molto forte. Era una squadra molto solida, per cui anche credo che anche se fosse stato Borg avremmo vinto uguale, perché lui poteva casomai fare 2 punti e non era detto, insomma. Quello di cui vado molto fiero è proprio di aver traghettato il tennis da sport un po' elitario, un po' aristocratico, diciamo, dove i circoli romani erano molto chiusi, dove la gente normale, tra virgolette, non andava, anche per pudore aveva quasi paura di entrare in questi circoli. Quegli anni 70, poi col 76, insomma, l'anno particolare, fu sdoganato il tennis a livello popolare, per cui giocavano tutti, gli operai, gli impiegati, i professionisti, e non c'era più quella cosa di solo quei circoli dove per entrare era molto difficile, ma nacquero circoli di tennis dappertutto. Beh, un discorso da anniversario di Unità d'Italia, quello di Adriano Panatta. Simona, un'ascoltatrice di 29 anni, beata lei, ha compilato un elenco abbastanza lungo di protagonisti di Unità sportiva relativamente recenti, la nazionale di volley di Velasco, le vittorie olimpiche di Baldini, le ragazze della scherma, i record di Federica Pellegrini, la Schiavone, le vittorie da Ferrari, Valentino Rossi, eccetera. Vabbè, quindi toccava scegliere. E per accontentarla abbiamo scelto una delle ragazze della scherma, direi la principale protagonista attuale, cioè Valentina Vezzali, qui dopo la vittoria nel fioretto individuale a Pechino 2008. È difficile vincere una volta, ma avere il peso e la responsabilità di doversi riconfermare. Era tutto così vicino, ma tutto così lontano. Faccio scherma per passione, amo tantissimo questo sport, mi ha regalato tantissimo. E se oggi sono qui, è grazie a tutti i sacrifici che ho fatto. Credo che Dio mi abbia dato un grandissimo talento. Il talento è una sorta di vocazione. Io ho cercato di dare un senso a tutto questo e sono riuscita a fare veramente qualcosa che non avrei mai immaginato. Mi viene in mente una canzone di Eros Ramazzotti, le cui parole dicono: quando la festa comincerà tu sarai regina, tutta la gente si fermerà a guardarti stupita. A proposito di 17 marzo, sono curioso di vedere che cosa ha scovato Nicola Filippone. Sembra ieri. 17 marzo 1965. Il Torino di Nereo Rocco conquista le semifinali di Coppa delle Coppe, eliminando la Dinamo di Zagabria. Dopo aver pareggiato 1-1 a Torino, i Granata riescono a vincere 2-1 in Jugoslavia, con reti del terzino Poletti e del centravanti Hitchens. Il percorso europeo dei Granata si chiuderà a Zurigo nello spareggio contro i tedeschi del Monaco 1860. La semifinale di Coppa delle Coppe raggiunta durante la gestione Rocco sarà il miglior risultato del Torino in Europa fino al 1992, quando la squadra guidata da Mondonico arriverà alla finale di Coppa UEFA, dove sarà sconfitta dall'Ajax. E bravo Nicola, sarebbe stato banale ricordare che oggi è il compleanno numero 72 di Giovanni Trapattoni, cui va comunque un augurio speciale, visto che coincide con i 150 anni dell'Unità del Paese. A proposito di Torino, due mail tra le tante, ma davvero le tante, direi a larga maggioranza, arrivate a questo proposito. La prima è di Paolo Kamalic, o Kamalic, che scrive: in ambito calcistico il grande Torino rappresenta la squadra di club che più di tutte le altre ha unito l'Italia, considerando anche il periodo storico in cui fu in auge. Agostino Ghiglione gli fa eco da Roma e scrive: trattandosi di un evento collettivo che è stato felice per molti anni ma si è dissolto in un attimo, dico il grande Torino e la sua scomparsa il 4 maggio 49 sulla collina di Superga. Quella su grande Torino è una testimonianza davvero d'eccezione, perché a parlare è Sauro Tomà. Tomà è l'unico giocatore del Torino sopravvissuto a Superga, perché è rimasto a casa a curarsi un infortunio. Il Gab era il più funambolico, aveva degli interventi tutti particolari, e mi ripeto e vi dico che alle volte gli dicevo: Gab, ma lo rifai quello che hai fatto? E lui mi diceva: no, Sauro, non te lo posso fare, te lo faccio se mi viene in mente, ecco. Cioè era un estemporaneo. Il Gabber Agabeto, uno dei più grandi centravanti di tutti i tempi. Quel grande Torino fu davvero un collante per l'unità degli italiani negli anni difficili della ricostruzione del secondo dopoguerra. E per la maggioranza degli italiani, per i quali il Torino non era direttamente la squadra del cuore, era comunque la seconda. Anni in cui lo sport fece davvero una grande compagnia al paese, impegnato a liberarsi dalle macerie materiali ma anche morali, grazie al grande Torino, grazie anche alla irripetibile rivalità che si creò tra due grandi campioni del ciclismo come Gino Bartali e Fausto Coppi. Franco Piantalini ha scovato in archivio un frammento tratto dal Musichiere, trasmissione televisiva molto popolare alla fine di quegli anni 50, in cui due concorrenti si sfidavano a chi indovinava per primo un motivo musicale misterioso. Quella sera, che se fosse già esistita l'audience sarebbe stata bulgara, si sfidarono proprio Coppi e Bartali. C'eravamo tanto amati per vent'anni più. C'eravamo pizzecchiati sui giornali e alla TV. Per un giorno ci incontrammo, quale scherzo del destino, perché insieme riparammo presso il Santo Pellegrin. Appinati i ghiribizzi, siamo vinti io e te. Come l'edera e la pizzi. come zucchero e caffè. Ed io ripenso a quel tempo lontano, le nostre lotte sui monti e sul piano, e sulle Alpi coperte di nevi. Come perdevi, come perdevi. Ti ricordi quella volta che ti ho atteso a San Malò? Di memoria non ne ho molta, non ricordo proprio, no. Mi ricordo viceversa che t'ho spinto sulla Spen. La memoria anch'io l'ho persa, non me lo ricordo bene. Che dirai, mio comandante, nel vedermi pedalar? Ti dirò, seduta stante, che è tutto da rifare. Giri d'Italia ne ho vinti tanti, senza mai prendere droghe eccitanti. Giri d'Italia lui sì li vinceva, ma le prendeva, oh, se le prendeva. Passati 50 anni abbondanti e si sentono, però la suggestione credo che sia intatta. Saltiamo al 2006, facciamo questo balzo. Scelgo una mail, anche qui tra le tante arrivate, è firmata Giuliano Giacone Giacobbe. Secondo me il campione che ha unito di nuovo l'Italia è stato Marcello Lippi, perché dopo molti anni ci ha fatto scendere nelle piazze per la vittoria di un mondiale. Grazie. E allora una Marcord di Marcello Lippi. È impensabile che uno se ne vada a dormire, dorma tranquillo quelle 6-8 ore prima di una finale dei campionati del mondo. Io invece ho dormito. L'ultimo sono quelle cose che ti vengono a mente. Tutti mi hanno chiesto come mai Grosso l'ultimo, perché pensavo, Grosso è l'uomo dell'ultimo minuto. Ha fatto rigore al 94esimo con l'Australia, ha fatto gol al 120esimo, 18esimo con la Germania, ha detto fai l'ultimo gol, l'ultimo rigore. E poi sono stati tutta la notte a festeggiare. Io ho mangiato qualche cosa, poi mi sono andato in camera e mi sono rivisto tutta la partita, compreso i calci di rigore, fino alle 7 di mattina, perché quella è la mia maniera di festeggiare, è la maniera di festeggiare che preferisco. In rappresentanza della valanga di mail che hanno individuato nel Mondiale 82 invece il momento più alto di identità nazionale collettiva, ecco una mail filmata a Marco Traversi che scrive: potrei dire tutti i grandi dello sport e fare un elenco infinito, però io sono nato nel 77 e se all'età di 5 anni ricordo ancora distintamente e con commozione due signori con la pipa, uno si chiamava Bearzot e l'altro Pertini, un motivo ci sarà pure. Ricordo anche il tricolore enorme cucito da mia madre dopo la vittoria sul Brasile, partiva dal terrazzo del primo piano e toccava quasi il terreno. La voce è quella di Enzo Bearzot, tratta da una delle sue visite qui in questo studio di Radio 24. Ma scusa, ma quando la squadra gioca male, vuoi mica che l'allenatore dica che si giochi bene? Cerca di portare, di aiutare, di vedere un po', di migliorare. Ma nessuno dirà abbiamo giocato bene una partita, anche le prime partite che le abbiamo giocate bene, forse la prima. Sì. Ma le altre due c'era da spararsi. Ma io non posso spararmi, devo cercare di dare forza alla squadra, di unirla. Certo. Infatti siamo venuti fuori dopo. Ma perché? Perché era la squadra del 78 che è venuta fuori. Anche là è venuta fuori con difficoltà. Che è rimasta. Sì, cambiato tua... 1-2. Ma... No, ma intendo dire che è rimasta quella più nel tuo cuore, forse, no? Sì, paradossalmente. Certo, quella del 78 e non quella dell'82. È la mia esperienza. Il tuo primo amore azzurro, la prima costruzione. Beh, insomma, risentire la voce del vecchio è una bella esperienza. Alla fine di questa cavalcata, che non sarà stata lunga 150 anni visto che lo sport è nato dopo, ma insomma una buona metà la coperta, avendo riascoltato Coppi, Bartali, il grande Torino, sinceramente non ci starebbe forse male l'inno nazionale, ma a Torino per l'appunto, che oggi è l'epicentro della festa, direbbero esagerumanen, non esageriamo, lasciamo perdere. Sicché, dopo aver ringraziato Fabio Cantadori in regia, Franco Piantanide in redazione e tutti voi che avete contribuito al buon esito con le vostre scelte di questo programma da ricordare, io credo accontentiamoci della sigla. Buona festa nazionale a tutti.